nella catastrofe in strofe, la fine all'inizio, nella catastrofe in strofe, forza e coraggio, nella catastrofe in strofe, a vira voce, nella catastrofe in strofe, chi fotte chi, nella catastrofe in strofe, come sopravvivere, nella catastrofe in strofe, fuori di casa, nella catastrofe in strofe, guarda nel buio, nella catastrofe in strofe, le bestie della giungla, nella catastrofe in strofe, l'infame ha sempre fame, nella catastrofe in strofe, riempiendo il vuoto, nella catastrofe in strofe, perdi il tuo credo, nella catastrofe in strofe, fucking bambola, nella catastrofe in strofe, l'ora più lunga, nella catastrofe in strofe, quello che detesto, nella catastrofe in strofe, spropassaggio, nella catastrofe in strofe, fino alla caduta, atti piatti, rusolo del voodoo, è la catastrofe in strofe, da così non ti piatti, atti piatti, rusolo del voodoo, è la catastrofe in strofe, da così non ti piatti, atti piatti, rusolo del voodoo, è la catastrofe in strofe, da così non ti piatti, atti piatti, rusolo del voodoo, è la catastrofe in strofe, da così non ti piatti, atti piatti, rusolo del voodoo.